le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Expo meno uno. Oggi iniziano le proteste col corteo degli studenti. Allontanati tre tedeschi mentre il ministro Alfano dice diritto di protestare ma non di rovinare la festa. 9 milioni di italiani visiteranno l'esposizione, dice Federalberghi. 190.000 approfitteranno del fine settimana lungo che si apre domani e però è prevista pioggia a Milano. Cresce la disoccupazione in marzo che tocca il 13%. C'è più gente che cerca lavoro ma diminuisce il numero di occupati. La ripresa si rafforza in Europa, dice la Banca Centrale Europea. Parte da domani il progetto dell'INPS che consentirà ai lavoratori under 40 di calcolare il proprio assegno previdenziale. Si chiamerà la Mia Pensione. Legge elettorale, nuova fiducia al governo sull'articolo 2, 350 i sì, 2 in meno di ieri, ancora assenti durante il voto Letta, Bersani e Cuperlo. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it, se volete scriverci, potete commentare la trasmissione sulla nostra pagina, sul sito www.radio24.it e durante la diretta scriverci via sms al 349-238-6666. In apertura parliamo di Expo, dunque si parte domani e vi ricordo tra l'altro che domani Radio 24 sarà in onda regolarmente con tutti i suoi programmi in diretta e con uno speciale tra l'altro dalle 9 alle 11. Seguiremo l'inaugurazione di Expo e tutta questa giornata con collegamenti ovviamente anche durante i giornali radio, nonostante sia il primo maggio, ed Effetto Giorno sarà in onda regolarmente, quindi ci risentiremo domani alle 13. In apertura parliamo di Expo, dunque l'inaugurazione domani mattina. Sono già iniziate le proteste a partire da quella degli studenti, nel frattempo ultimi ritocchi al cantiere completati, mentre questo pomeriggio ci saranno le bonifiche e le verifiche di sicurezza. Iniziamo dalla cronaca, dal centro di Milano con Livia Zancanerra. Livia, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, in questo momento ci troviamo a Porta Venezia, il corteo è partito stamattina alle 10.30 da Largo Cairoli, è passato per il centro in Via Larga e ora ci troviamo qua e sta procedendo. Allora, gli studenti, è un corteo organizzato dalla piattaforma Studenti contro Expo, ci sono studenti, mi hanno detto, che arrivano da tutta Italia, hanno fatto parlare ragazze che arrivano da Padova, da Crema e dalle altre parti d'Italia, non solo dall'Italia ma anche dall'Europa, soprattutto dalla Germania. Una ragazza ha detto che sono qua per protestare in segno di solidarietà con gli studenti di Milano, con gli studenti italiani contro il capitalismo. Allora, perché protestano? Loro protestano perché considerano nel modello di Expo un modello che sfrutta i giovani, sfrutta la città ed è che è un'opportunità solo per le multinazionali. Loro dicono la generazione che non lavora gratis per Expo scende in piazza. Allora, bisogna dire che la manifestazione è andata avanti tranquilla fino in Viale Maino. In Viale Maino c'è la sede della Manpower, che è la sede che, ricordiamo, ha selezionato il personale per Expo con tutte le polemiche che poi ci sono state. Lì un gruppetto di ragazzi incappucciati hanno iniziato a lanciare vernice e a cercare di togliere le inferriate. Ci sono stati momenti di tensione, i ragazzi stessi, gli organizzatori, gli studenti si sono arrabbiati con questo gruppo di ragazzi perché dicono un gruppo non può rovinare comunque quello che noi abbiamo organizzato in settimane e mesi. Ricordiamo che questa manifestazione si inserisce nelle 5 giornate, nelle cosiddette 5 giornate di Milano. Domani si terrà proprio nel giorno dell'Expo il corteo nazionale che partirà da piazza 24 maggio alle 14. I ragazzi comunque si dissociano dagli episodi di violenza, dicono non c'è un corteo buono e uno cattivo. Ricordiamo le parole di Alfano che ha detto: contro i violenti saremo severissimi. E per ora è tutto. Grazie Livia Zancanerra, di tutto questo torneremo a parlare più avanti, lo faremo con lo stesso ministro dell'Interno Angelino Alfano per capire come ci si sta preparando la giornata di domani e poi con Alberto Di Monte che è uno dei coordinatori delle manifestazioni No Expo. Expo dunque, ci siamo arrivati, non senza fatica, ad anni dalla prima idea. Expo stasera si parte e 10 anni sono volati. L'idea fu di Letizia Moratti, che la mise in campagna per diventare sindaco di Milano nel 2006. Era l'anno in cui Berlusconi abbracciava Bush Junior e il senatore napolitano saliva al Colle per la prima volta. Che sarebbe stata una grande rincorsa, si doveva capire. La candidatura fu depositata solo 3 giorni prima della scadenza e andò a rompere le uova nel paniere ai turchi di Smirne, che puntavano sul tema della salute e forse non pensavano di dover combattere per un evento che suonava tanto datato. Tant'è, nel 2008 Milano se lo porta a casa con 20 voti di scarto e per 3 anni è il litigio delle istituzioni. Poi dal 2012 si sono fatti avanti gli interessi ed è stato il tempo della cupola e delle manette. Le 70 interdittive che escludono dal cantiere altrettante aziende fanno parte di questa storia che Raffaele Cantone non ha ancora finito di scrivere. Ora si arriva al primo traguardo, con il paese diviso tra i pro e i contro Expo, e comunque la si veda con i riflettori accesi e puntati sulla kermesse ecumenica dei cibi, dove slow e fast stanno spalla a spalla. Nell'angolo l'armadio delle incertezze su costi finali, ritorno e futuro del sito. 160 milioni di soldi pubblici solo per l'acquisto del terreno da far rientrare e rendere. Per farci cosa? Questo è uno dei misteri di Expo. L'armadio sarà comunque riaperto a tempo debito o meno, dipende in fondo da come andrà. Ma intanto che la festa abbia inizio, anche perché criticare è facile, ma fallire potrebbe essere molto doloroso per tutti. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Expo 2015. L'Expo di Milano può offrire una spinta importante per la ripartenza del settore turistico, con i circa 9 milioni di italiani che hanno già deciso di visitarlo. Il commento del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, in base ad un'indagine esclusiva realizzata dalla federazione. Quanto invece alle previsioni turistiche del ponte del 1° maggio, mostrano un segnale positivo, con quasi 6 milioni di italiani che approfitteranno dell'occasione, scegliendo l'Italia nel 93% dei casi. 190.000, dice Federalberghi, visiteranno proprio Expo in questo lungo fine settimana. Il presidente Bernabò Bocca al microfono di Adriana Fracchia. Sono le intenzioni degli italiani, i 9 milioni hanno manifestato la volontà di visitare l'Expo e la cosa interessante è che il 30% di questi 9 milioni, quindi circa 3 milioni, hanno già detto che soggiorneranno a Milano o nelle aree limitrofe, e un ulteriore 30% ha detto che ancora è indeciso se soggiornerà o meno, per cui se dovessimo chiudere a un 50% di questi 9 milioni sarebbero 4 milioni e mezzo di arrivi in più sulla città di Milano, quindi è un dato al momento assolutamente positivo. Per quanto riguarda invece il 1° maggio per il ponte? I dati sono buoni, 6 milioni di italiani hanno detto che si muoveranno per il 1° maggio, diciamo che la fortuna e la coincidenza è di avere un 1° maggio che cade di venerdì e quindi ovviamente significa fare un weekend lungo, ma la cosa importante è che il 93% degli italiani faranno una vacanza durante il 1° maggio rimarranno in Italia e questo per noi è il dato più importante. Se questi dati riguardanti l'Expo il 1° maggio dovessero venire confermati, questo significa un'estate positiva per il turismo del nostro paese. E visto che siamo sui temi economici, l'altra notizia forte di queste ore sono i dati forniti dall'Istat sulla disoccupazione, il servizio. Una breve parentesi, dicembre e gennaio, poi la disoccupazione ha ripreso la sua crescita. A marzo il tasso è arrivato al 13%, rialza la testa anche la disoccupazione giovanile, che nello stesso mese supera il 43%. In calo gli occupati e la storia si ripete. Dopo la diminuzione di febbraio, a marzo occupati in flessione dello 0,3%, con 59.000 unità in meno rispetto al mese precedente. Presto, dicono i tecnici Istat, per vedere gli effetti del Jobs Act. È entrato in vigore il 6 marzo e ci vorrà tempo. Aggiunge il ministro Galletti che la sola riforma non basta, ci vuole una ripresa dell'economia che, al governo, sono convinti arriverà presto. E dire che in Eurolandia il tasso di disoccupazione si è fermato, da auto Eurostat, all'11,3%, lo stesso di febbraio, fermo anche nell'Unione al 9,8%. La flessione è netta in Irlanda, Spagna e Polonia, crescita altrettanto visibile in Finlandia, Croazia, Francia, Belgio e appunto Italia. E pensare che proprio questa mattina la BCE ci aveva nominato. In Italia e Spagna il miglioramento del clima di fiducia dei consumatori ha coinciso con un calo del tasso di disoccupazione, scrive la Banca Centrale nel bollettino mensile, dove parla anche del quantitative easing, quello stimolo esterno che da noi ancora non dà frutti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato di lavoro, parliamo di pensioni, perché oggi l'INPS ha presentato il nuovo sistema per sapere quanto prenderemo di pensione, almeno quanto prenderanno gli under 40, ipoteticamente. Andrea Viali, buongiorno. E così Simone, buongiorno, prenderà il via domani questo progetto, il progetto La Mia Pensione, un'operazione che permetterà, lo dicevi, ai lavoratori, soprattutto a partire da quelli del settore privato, ai lavoratori registrati sul sito dell'INPS, di simulare l'importo di quel che sarà la loro pensione, sia in caso di pensione di vecchiaia, sia in caso di pensione anticipata. Il progetto partirà gradualmente a partire dagli under 40 e entro il 2015 sarà disponibile per oltre 17 milioni di iscritti alle diverse gestioni previdenziali su un totale di 23 milioni. Lo ricordiamo, è importante informare i cittadini per permettergli di pianificare il loro futuro, ha spiegato, ha detto il presidente dell'INPS Boeri presentando questa iniziativa. C'è da dire che il suo intervento è stato interrotto a più riprese da una protesta dei sindacati di base, secondo i quali questo progetto costerà oltre 50 milioni, 50 milioni che secondo loro verranno tagliati dalle spese di funzionamento dell'ente, mettendo a rischio anche le retribuzioni dei dipendenti. Il dato è stato però smentito dallo stesso Boeri, secondo il quale questa operazione sarà a costo zero. Simone. E grazie a Andrea Viali per questo aggiornamento. Parlava di lavoratori del settore privato, ma ci sono notizie che riguardano anche i lavoratori del settore pubblico, perché il Senato ha dato il primo via libera al DDL sulla pubblica amministrazione, il DDL Madia. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Primo giro di boa per un provvedimento, quello sulla pubblica amministrazione, arrivato al Senato ben 8 mesi fa. Il testo passa ora alla Camera per la seconda lettura, con l'obiettivo di approvarlo prima della pausa estiva. Si tratta comunque di una legge delega e quindi la sua piena attuazione si avrà con i decreti che saranno varati dal Governo. 144 i voti favorevoli, un astenuto sì da PD, centristi e gruppo Autonomie, si sono espressi contro 5 Stelle, Forza Italia, SEL e Lega. Una riforma non di settore, ma per 60 milioni di residenti. Un primo passo per una pubblica amministrazione più semplice e vicina ai cittadini, commenta il ministro Madia. Ma quali le principali novità? Ce ne sono anche dall'ultimo minuto. Tra queste, la rimodulazione della durata degli incarichi per i dirigenti pubblici. Si parla allora di un 4+2, ovvero che la proroga può essere solo di 2 anni. L'Aula ha detto inoltre sì ad assunzioni più veloci per i vincitori di concorsi e alla staffetta generazionale, anche se in una versione soft per non cadere in problemi di copertura finanziaria. Si allarga quindi la platea dei vertici sottoposti a tetti negli stipendi, salta però lo stop agli automatismi di carriera per tutti i dirigenti della pubblica amministrazione, riordino del settore della ricerca, poteri del Premier, municipalizzate, svolta digitale, gli altri temi che completano la riforma. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Dall'aula del Senato ci spostiamo all'aula della Camera, dove il governo ha ottenuto la seconda di 3 fiducie sulla legge elettorale. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, passa qui a Montecitorio anche la fiducia seconda, numero 2 dell'aula di Montecitorio, quella sull'articolo 2 della legge elettorale, 350 sì, 193 no, un astenuto, 37 dissidenti nel PD. In tutto hanno votato 16 deputati meno di ieri, un dato politico in sostanza identico a ieri, spiega Emanuele Fiano, responsabile riforme del PD, con le stesse assenze Bersani, Letta, Cuperlo, Bindi, Fassina e Epifani. Il vice segretario Lorenzo Guerini però assicura: lavoreremo nei prossimi giorni per recuperare compattezza, ce lo chiedono elettori e militanti. Oggi pomeriggio è prevista l'ultima fiducia, mentre il ministro degli interni Angelino Alfano difende la scelta del premier Matteo Renzi, serviva per rispondere all'abuso del voto segreto. Il titolare del Viminale chiede però una modifica sulla riforma del Senato. Lunedì qui alla Camera ci sarà il voto finale sul provvedimento. Ricordiamo, a Montecitorio è disgiunto dalla fiducia, sono previste 11 ore di dibattito con probabile voto segreto chiesto da Forza Italia. Te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Noi ci spostiamo all'estero, gli aggiornamenti dal terremoto del Nepal. Innanzitutto la buona notizia di questa mattina, cioè che i soccorritori hanno estratto un sopravvissuto dalle macerie 5 giorni dopo appunto il terremoto, e altre notizie parlano di altre 2 donne salvate, estratte vive dalle macerie anche qua a 5 giorni dal sisma. Sono ancora 3 gli italiani che risultano irreperibili, mentre molti stanno già tornando in Italia con alcuni aerei. Le vittime intanto sono salite a 6.630, lo ha reso noto la polizia di Kathmandu. Il distretto più colpito è quello di Sindhupalchok, dove ieri si sono registrate forti tensioni per l'assenza di aiuti. Là ci sono stati 1.677 morti. Proteste ieri in tutti gli Stati Uniti dopo gli incidenti di Baltimora, seguiti alla morte di un afroamericano arrestato dalla polizia. Baltimora in difesa di Freddie Gray, il 25enne afroamericano morto una settimana dopo l'arresto, sono proseguite negli Stati Uniti le manifestazioni contro la violenza della polizia. Cortei a New York, ma anche davanti alla Casa Bianca a Washington, a Boston, Houston, Indianapolis, Atlanta, Chicago, Ferguson. Qualche tafferuglio a Denver. Tutto tranquillo invece a Baltimora, dove a migliaia hanno marciato fino a sera nella dimostrazione pacifica che si è conclusa davanti alla sede del municipio prima che scattasse nuovamente il coprifuoco dalle 22 ore locale fino alle 5 del mattino. Nella Grande Mela la manifestazione ha invaso il cuore della città con diverse centinaia di dimostranti che chiedevano giustizia per Freddie Gray. I newyorkesi si sono riuniti a Union Square dopo un appello lanciato via Facebook. Numerosi gli arresti, almeno una sessantina. A Denver invece i fermi di polizia sono stati 9. Ed emerge intanto una prima testimonianza su quanto sarebbe avvenuto al giovane Freddie Gray. Un'altra persona arrestata quel giorno avrebbe riferito di averlo sentito sbattere contro le pareti del furgone della polizia come se cercasse di ferirsi da solo. Ora il testimone, che si trova in prigione, teme per la sua incolumità e per domani è atteso il rapporto preliminare della polizia. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra un attimo parleremo con il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, per capire quali sono le prospettive per la giornata di domani, dove si prevede una forte protesta contro Expo e se ci sono rischi per la sicurezza. Ci occuperemo anche della vendita del Milan, oggi probabilmente un nuovo incontro tra Silvio Berlusconi e il thailandese Mr. B, che vuole comprarsi la squadra. Tra poco. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Expo meno uno, oggi iniziano le proteste col corteo degli studenti, che ha portato già, sono stati imbrattati alcuni negozi, alcuni edifici in centro, c'è stata una carica della polizia. Il ministro Alfano dice diritto di protestare ma non di rovinare la festa. 9 milioni di italiani visiteranno l'esposizione, dice Federalberghi, 190.000 approfitteranno del fine settimana lungo che si apre domani. Cresce la disoccupazione in marzo, che tocca il 13%, c'è più gente che cerca lavoro, ma diminuisce il numero di occupati. Parte da domani il progetto dell'INPS che consentirà ai lavoratori under 40 di calcolare il proprio assegno previdenziale. Si chiamerà La Mia Pensione. Oggi forse un nuovo incontro di Silvio Berlusconi con il magnate thailandese che vuole comprare il Milan, mentre sarebbe vicino il passaggio generazionale in Mediaset, per la quale nelle scorse ore si è parlato addirittura di una vendita oppure di una cessione di quote, poi smentita. Per molti versi comunque tutto questo rappresenta la fine di un'epoca. Addio, si chiude un'epoca, quella del Berlusca mattatore, quella del padone del Milan e delle TV, quella del travolgente che pensimi degli anni Ottanta, una salita formidabile che gli aveva permesso, scollinata la vetta, di scendere in campo quasi senza rivali nella politica del dopo Tangentopoli. Si chiude un ciclo, un pezzo di storia che ormai è titoli di coda, un pezzo di qua, un pezzo di là. L'impero si sgretola facendo cassa, ma restringendosi in un limbo sempre più opaco, quello della tranquillità, del passo indietro dopo tanti passi avanti. In particolare colpisce la cessione del Milan ai cinesi o thailandesi che siano, perché il Milan, tra tutte le sue creature, è quella su cui ha più costruito la sua immagine di uomo vincente, che si mangia anche i politici politicanti, quelli che non vengono dal campo, dalla gavetta, dal mattone. Ora siamo alla fine e non si tratta solo di ricavare dal Milan un miliardo, ma anche di salvare quel che resta di quel sogno, che come quasi tutti i sogni si conclude tra i battibecchi degli eredi e degli avvocati. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque, domani apre Expo e soprattutto c'è un lungo fine settimana, quindi non tutti andranno a Milano evidentemente. Abbiamo il capitano Cristian Pacini della sala previsione dell'aeronautica militare in linea con noi. Capitano Pacini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei, ben ritrovati a tutti i radioascoltatori, salve, mi dica. Pioverà sulla testa i capi di Stato e di Governo domani? Direi che durante la seconda parte della giornata le probabilità di precipitazioni tenderanno a aumentare sempre più, non tanto tra le 12, le 14, le 15 del pomeriggio, dove comunque ci attendiamo, proprio nella zona dell'Expo, l'arrivo delle piogge, ma stiamo parlando di piogge molto deboli, quasi piovigine, mentre già dalle 15, le 16 fino al tramonto la probabilità di pioggia è più elevata e avremo al massimo 1-2 mm di pioggia, non più comunque, come si suol dire, spalmati in tutte le 4, le 5, le 6 ore, quindi stiamo parlando comunque di cumulati di pioggia molto bassi, il tutto comunque circondato da un cielo molto nuvoloso coperto e da una ventilazione molto debole di provenienza orientale. Questo per quanto riguarda la Lombardia e il suo capoluogo, per il resto gli italiani che vogliono partire che scenario si troveranno davanti? Allora, la giornata di domani diciamo che il nord rimane purtroppo interessato da correnti umide occidentali che portano una quantità di nuvolosità abbastanza elevata, soprattutto, ripeto, al nord e in particolar modo sul settore alpino e prealpino, dove ci aspettiamo ancora durante le ore centrali della giornata delle precipitazioni anche a carattere temporalesco. Rimane al di fuori di tutto questo il centro-sud, che non solo vivrà delle giornate molto belle, ma ci aspettiamo anche proprio per il fine settimana un rialzo termico, un aumento delle temperature per area di matrice africana caldo-umida che invece si porterà sulle regioni centro-meridionali. Ripeto, il nord rimarrà invece ancora un po' soggetto a questa nuvolosità. Il centro-sud godrà di giornate diciamo ampiamente soleggiate, ma caratterizzate anche dalla formazione temporanea di velature, le cosiddette nubi alte e sottili, che però comunque non impediranno al sole di riscaldare l'atmosfera. Avremo temperature anche al di sopra dei 20 gradi, soprattutto le due isole maggiori godranno di un rialzo termico abbastanza significativo, con temperature al di sopra dei 25 gradi. Ottimo, poi parte il caldo dalla settimana prossima, no? Dalla settimana prossima parte il caldo, possiamo anticipare valori anche intorno ai 28-30 gradi sulle regioni tirreniche centro-meridionali. Benissimo, la ringrazio. Grazie al capitano Cristian Pacini della Sala Previsione dell'Aeronautica Militare per averci dato un quadro, insomma, quindi a quanto pare Expo non sarà, almeno la prima giornata Expo non sarà baciata dal bel tempo. Vi voglio dare intanto un paio di notizie che sono state diffuse in mattinata dalle agenzie, una notizia innanzitutto su una vicenda che abbiamo seguito molto, la vicenda di Malala Yousafzai, la giovane pakistana premio Nobel per la pace che ricorderete fu ferita gravemente il 19 ottobre 2012 da un commando di talebani. Ebbene, la notizia che è arrivata questa mattina è che un tribunale antiterrorismo pakistano ha condannato 10 persone all'ergastolo per l'attentato realizzato contro di lei. C'è un'altra sentenza della quale vi vogliamo parlare, quella che arriva dal tribunale di Milano, che ha assolto con formula piena Giampiero Pesenti e altri 7 ex manager della Franco Tosi di Legnano, azienda che produce turbine, che erano imputati per omicidio colposo in relazione alla morte di 32 operai avvenuta per l'esposizione all'amianto. Angelino Alfano, ministro dell'Interno, buongiorno. Buongiorno a voi. Dobbiamo aspettarci e vi aspettate violenze per la giornata di domani? Noi ci aspettiamo che tutti manifestino in piazza rispettando i diritti di chi non manifesta e rispettando un grande giorno per l'Italia, che è il giorno della inaugurazione di Expo. È un giorno che proietta il nostro paese in tutta la sua grandezza di fronte al mondo e noi abbiamo apprestato misure di sicurezza degne di un grande paese che ospita un grande evento e per cui chiediamo a tutti di manifestare nel rispetto dei diritti di tutti quelli che non manifestano e che vogliono godersi questa splendida giornata di inaugurazione di Expo. Questo è quello che chiedete e quello che sperate, evidentemente, Ministro. Io vorrei capire quello che vi aspettate. E noi ci aspettiamo che tutto si svolga regolarmente. È assolutamente chiaro che noi abbiamo lavorato impiegando le nostre migliori energie, mandando in campo i nostri migliori uomini, esponendo di fronte al paese l'esercito, le forze dell'ordine per assicurare che l'evento si svolga in piena tranquillità. C'è bisogno della collaborazione di tutti. Sappiamo che i grandi eventi spesso diventano un richiamo per violenti e manifestanti che li utilizzano per avere loro visibilità, la loro visibilità, e stiamo in campo per evitare che succedano disordini. Siete in campo e mi sembra anche un po' di opera di prevenzione, nel senso che ci sono stati fermi e anche delle espulsioni nella giornata di oggi. Sì, abbiamo fatto un buon lavoro a testimonianza che la prevenzione funziona e che il sistema di sicurezza regge. È chiaro che nessun evento in nessun paese possono dirsi a rischio zero, ma noi abbiamo posto tutte le premesse perché l'Expo si svolga in piena tranquillità. Sono stati, questa mattina sono iniziate le proteste, come sa, c'è un corteo, in corso un corteo degli studenti in centro, sono stati imbrattati una serie di edifici, certo nulla che abbia a che fare con pura violenza, ma voi potete intervenire anche su questo o non si può fare niente? No, abbiamo già effettuato delle cariche di alleggerimento, riuscendo a riportare un gruppetto di una quindicina di soggetti che si erano mascherati, travisati e si erano staccati dal corteo per raggiungere la via Rossini lanciando uova e facendo delle altre azioni, ma li abbiamo riportati dentro il corteo, non ci sono stati particolari danni, ma è chiaro che questo è spiacevole, però non appartiene alla categoria delle cose che ci preoccupano molto e la polizia ha agito bene. Le ultime due cose, Ministro. Oggi il Fatto Quotidiano pubblicava una sorta di mappa di dove gli antagonisti più duri vogliono colpire: il Palazzo delle Stelline in Corso Magenta a Milano e la Scala. Avete evidenza di tutto questo oppure no? È chiaro che i nostri servizi di prevenzione, della polizia di prevenzione, tutto il lavoro delle intelligence è stato concentrato ad acquisire informazioni, ma è chiaro altrettanto che non è la radio il luogo nel quale il ministro dell'interno deve comunicarlo. Ecco, è perfettamente comprensibile. Speriamo che vada tutto bene, ministro, le auguro una buona giornata, un grazie, buon lavoro e un buon... In bocca al lupo a tutti noi italiani per questa splendida partenza dell'Expo. Crepi il lupo, speriamo che vada tutto bene. Sentiremo tra poco anche un'altra voce, una voce di uno dei protagonisti di queste proteste, si chiama Alberto Di Monte, fa parte dei comitati No Expo, per sentire anche le loro ragioni e per capire come intendono muoversi nella giornata di domani, anche per isolare loro stessi eventuali violenti. Tutto questo dopo la pausa e dopo la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Expo si parte domani, oggi corteo degli studenti, imbrattate alcune vetrine in centro a Milano, tensioni con la polizia ma nessun incidente grave, allontanati tre tedeschi. 9 milioni di italiani visiteranno l'esposizione, dice Federalberghi, 190.000 approfitteranno del fine settimana lungo che si apre domani. Cresce la disoccupazione in marzo, che tocca il 13%, c'è più gente che cerca lavoro ma diminuisce il numero di occupati. Legge elettorale, nuova fiducia al governo sull'articolo 2, 350 sì, 2 in meno di ieri, ancora assenti durante il voto Letta, Bersani e Cuperlo. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Siamo al telefono, siamo in linea con Alberto Di Monte, che è tra i coordinatori di queste che sono state definite come le 5 giornate di Milano di protesta contro l'Expo, che sono di fatto iniziate oggi e stanno proseguendo questa mattina con il corteo degli studenti. Di Monte, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, perché protestate? Nel 2007, in occasione della prima visita del BIE, l'ufficio internazionale che organizza Expo, dichiarammo che le promesse fatte alla città di Milano e al paese non sarebbero state mantenute. Biblioteca europea, tre metropolitane, 60 cascine demaniali, vie di terra, vie d'acqua, e diciamo che questo è avvenuto con una sconcertante puntualità. Invece un'eredità di debito pubblico, 1.600 ettari di territorio agricolo cementificati, lavoro precario quando non volontario, sono invece l'eredità di questa esposizione alle porte. E questi sono i motivi per i quali protestate. Ci spiega che idee avete per domani, perché come sa circola grande preoccupazione in merito a quello che può succedere con la manifestazione di domani, cioè imponente schieramento di forze di polizia, insomma si temono scontri, addirittura oggi il Fatto Quotidiano pubblica una sorta di mappa, per cui ne parlavamo prima col Ministro dell'Interno, nella quale si dice ci sono gruppi che hanno intenzione di colpire la Scala e il Palazzo delle Stelline di Milano, dove ha sede tra l'altro la sede locale della Commissione Europea sostanzialmente. Prevede incidenti? Dunque, io ricordo semplicemente che questo percorso nasce appunto nel 2007, quindi credo che 7 anni di storia, di lotte, di battaglie portate a casa, come in occasione di quella contro la via d'acqua, che oggi restituisce alla città 4 parchi intatti e belli da vivere, parli da sé su quello che è lo stile i contenuti, le ragioni di questa protesta, le proposte che hanno fatto alla città. Dopodiché mi sembra che da parte, diciamo, delle forze dell'ordine ci sia stata una chiara presa di posizione lunga 2 mesi sul fatto che non ci sarebbero state le zone rosse. La zona rossa puntualmente invece è stata ieri confermata. Il corteo ha deciso comunque di non cedere alla provocazione, di stare lungo un percorso autorizzato. Avrà una testa delle lotte territoriali che non sono soltanto i movimenti auto-organizzati, ma vanno. Quindi, Di Monte, per capire, non tenterete di sfondare, di entrare nella cosiddetta zona rossa? Guardi, io penso che la testa del corteo è stata annunciata come uno spazio di tutela e garanzia. Si parla di un corteo di 30-40.000 persone, di una manifestazione di massa. Chiaramente è un movimento composito che parla tanti linguaggi, tante. Si trova tante forme per comunicare, ma penso che per quanto riguarda il pezzo della rete No Expo la proposta sia stata assolutamente chiara, quindi ci saranno dei momenti di segnalazione, ma non ci interessa una dinamica di zona rossa di cui non mi sembra ci sia traccia, diciamo così, nei documenti e nella storia, insomma, di questo movimento. Lei immagino che abbia, in quanto uno dei coordinatori, abbia un po' sotto mano anche un'idea di quello che sta succedendo, di quello che si sta addensando in città in queste ore. Abbiamo visto qualche espulsione da parte delle forze dell'ordine, da parte dei giudici questa mattina, 3 cittadini tedeschi che sono stati appunto espulsi dal paese proprio per rischio incidenti. Vorrei capire se lei mi dice giustamente, noi non abbiamo intenzione di far niente, però non si esclude che ci siano gruppi che non strettamente appartenenti al vostro mondo che invece colgano questa occasione per delle violenze. Io sottolineo che non mi pare ci sia stato lo stesso clamore tra gli indagati e gli inquisiti in casa Expo, che sono un numero di una 15 di volte maggiori agli episodi di questi giorni. No, Di Monte, no, però fermiamoci un attimo. Sugli inquisiti e gli indagati di Expo abbiamo fatto un cinema enorme, quindi c'è stato lo stesso identico clamore, se non di più. Quindi su questo, per favore, con calma. Mi risponda alla domanda, però. Lavorare nei cantieri, questa cosa non è vero, nonostante i commissariamenti, non mi pare che le ditte siano state allontanate come promesso alla cittadinanza. La verità è che quando ci sono state le indagini nei confronti di chi sta dentro Expo, il garantismo è assicurato. Quando in questi giorni ci sono state perquisizioni su oltre 50 persone, poi lei mi dice che 3 sono state allontanate, io le sto dicendo, negli ultimi 2 giorni è stato creato un clima di panico mediatico che ha portato a 8 sgomberi di case, a decine di perquisizioni, che sostanzialmente, come lei stesso mi dice, non hanno portato praticamente a nulla. Quindi francamente io credo che questo continuare ad alzare la tensione con le zone rosse, con il rischio, paventando il G8 e il rosso, che Francoforte, il terrorismo, Al-Qaeda e l'ISIS, non sia utile a mantenere la serenità della protesta. Mi pare che noi ci sia detto il percorso sta lungo, il percorso è stato autorizzato, e dall'altra parte stia avvenendo tutto quanto di più utile a scaldare gli animi della piazza, quindi evidentemente non è nel nostro interesse. La cosa che le vorrei chiedere, cioè un altro paio di domande, adesso se abbiamo lo spazio vorrei ritornare anche sui contenuti. Voi siete pronti eventualmente ad isolare i violenti? Senta, io nella vita non mi occupo di ordine pubblico, io faccio politica, quindi diciamo così che noi siamo pronti a fare quello che abbiamo sempre fatto, che è stato caratterizzare con uno stile, come dire, abbastanza chiaro le nostre proteste. Quando abbiamo deciso di bloccare dei cantieri, di smontarli, di praticare forme di lotta anche radicali, l'abbiamo fatto alla luce del sole e abbiamo portato anche a casa il risultato, francamente. Quindi non credo che sia nostro interesse intervenire su argomenti che non sono il nostro compito. Io le ripeto, il clima di tensione non lo stanno agitando in OEX, non lo troverà in nessun documento, da nessuna parte. Però, guardi Di Monte, lo dico anche per voi, nel senso che nel momento nel quale ci fosse una deriva violenta è vostro stesso interesse per non rovinare l'efficacia della protesta che queste persone vengano isolate, quindi non è, so che non si occupa di ordine pubblico, però in genere è interesse anche dei manifestanti più tranquilli, no? Far sì che non ci siano derive di quel tipo, molto semplicemente. Io credo che appunto la nostra storia parli da sé. Noi animiamo uno spezzone che è quello delle lotte territoriali, che sarà in testa al corteo, sta lungo quel percorso, ha perso 200 musicisti, ha un carro di comunicazione, azioni creative, certo, ci saranno per segnalare delle cose, per segnalare dei soggetti, degli interessi. Ricordiamo che la mega macchina di Expo porta un modello commissariale, che è un modello eversivo che propone al paese, e secondo noi quello è il nemico pubblico, non chi protesta, non una retorica mediatica che porta sostanzialmente la gente a dire attenzione, abbiate paura, state a casa, chi ve lo fa fare. Senta, perché il gioco è questo che scalda la tensione, non la protesta. Me la dice una cosa, allora ieri abbiamo parlato, nei giorni scorsi abbiamo parlato della carta di Milano, tra le madrine di Expo c'è Vandana Shiva, insomma non mi sembra, sento parlare, leggo anche i vostri documenti, si parla di un Expo nelle mani delle multinazionali. Che cosa ci avete contro Expo? Cioè, ma lei ha provato a leggerla la carta di Milano? Provi a fare una ricerca nel testo, provi a cercare le parole OGM oppure TTMP oppure biologico. Evidentemente all'interno del sito di Expo, in quella democrazia, in quell'economia di mercato, non esiste una scelta etica fatta per tutelare il clima, i territori, la qualità dell'agroalimentare. Vale tutto, ciascuno ha un megafono, chi più grande, chi meno, per vendere una propria idea del futuro. Evidentemente il gioco dei padiglioni nazionali e dei loro partner è il gioco di chi ha la capacità economica di mettere in campo una narrazione potente, e va a discapito invece di chi non ha le stesse risorse per proporre un ragionamento articolato in maniera differente. Ma è importante, perché la carta di Milano, che peraltro ha scritto Barilla, veramente basta fare una ricerca su alcune parole chiave dal nostro punto di vista per intercettare il tema della sovranità alimentare, non del marketing del food, e lei non le trova, non se ne parla. Decidere di non parlarne significa già decidere di prendere una posizione molto chiara su questi temi. La ringrazio, grazie Alberto Di Monte. Tra i contestatori dell'Expo, come avete sentito, abbiamo voluto sentire anche la loro voce. Ci fermiamo, c'è il traffico.